Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Integrare e mettere in rete i sistemi di videosorveglianza in continuità con i progetti di monitoraggio del territorio gestiti dalle amministrazioni comunali, un progetto previsto dalla Regione, le richieste dei sindaci nel Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza. Un anno fa il ritrovamento del corpo di Giulia Cecchettina a Pian delle More nella zona di Barcis. Oggi una cerimonia promossa da un gruppo di soli uomini con il patrocinio dei comuni del centro antiviolenza Voce Donna ricorda il tragico evento. Case di riposo in lista d'attesa, anche il triplo di risposte rispetto ai posti letto disponibili. Sale la domanda per gli anziani non autosufficienti. La situazione nel Friuli occidentale. Infortuni sul lavoro, la provincia di Udine continua a detenere la maglia nera a livello regionale. Non va meglio sul fronte delle malattie professionali. Il punto in una commemorazione della CIS dedicata a Beppi Turchetti. Lo sport, il basket, brucia la sconfitta subita dalla Pallacanestro Trieste da Trapani, coach Christian. Continuiamo a fare troppi errori concedendo troppo ai tiratori avversari. Vittoria della Udine al Pallacarnera e in A2. Continua il periodo negativo della Triestina che non riesce a lasciare il fondo della classifica di Serie C. A Salò è maturata la decima sconfitta. Volley a 1 femminile, la CDA Talmassons ha perso a testa alta in casa contro la corazzata Milano per 3-1, vittoria invece per la Tinet Prata in A2 maschile. Ancora una buona giornata da Andrei Marussige e da Elisabetta Zaccolo in studio per questa seconda edizione del nostro giornale radio. In attesa dei primi servizi parliamo della cerimonia avvenuta tra la zona del lago di Barcis e Piancavallo, perché esattamente un anno fa, il 18 novembre, in località Pian delle More, in provincia di Pordenone, veniva ritrovato il corpo di Giulia Cecchettino occultato da Filippo Turetta. Nello stesso luogo, a un anno da quell'evento, si è tenuta una cerimonia di commemorazione. Un anno fa il ritrovamento del corpo di Giulia Cecchettin lungo la strada che collega la località di Piancavallo a Barcis. Nella sua fuga Filippo Turetta ha scelto questi luoghi per abbandonare il corpo di Giulia lungo una scarpata in questa strada poco frequentata e solitamente chiusa in questa stagione. Stamattina nei pressi del luogo del ritrovamento una cerimonia semplice per ricordare quel tragico evento. Sono state deposte una corona di fiori e un mazzo di rose bianche con al centro una rosa rossa. C'erano le istituzioni, i soccorritori che parteciparono alle ricerche, tra cui l'unità cinofila della protezione civile con il cane Jäger che individuò il corpo, ma anche cittadine e cittadini saliti spontaneamente per lasciare un fiore, come Giulio, 22 anni, arrivato da Udine per portare una rosa. Ci sono un prima e un dopo Giulia, hanno detto gli organizzatori. Giulia diventata sorella, figlia e nipote di tutti. L'iniziativa è stata preceduta stamani in questura a Pordenone dall'inaugurazione della stanza protetta per le audizioni delle vittime di violenza, iniziativa organizzata con il Sor Optimist Club e il Comune di Pordenone. Aviano, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Case di riposo sotto assedio per l'aumento esponenziale di domande di ingresso per anziani non autosufficienti, un incremento dovuto soprattutto all'invecchiamento della popolazione, alla diffusione di malattie croniche sempre più complesse. Il servizio. In lista d'attesa il doppio, il triplo di persone rispetto ai posti letto disponibili. Nelle case di riposo dalla fine della pandemia è esplosa la domanda di inserimento di anziani non autosufficienti. Negli ultimi mesi ben oltre le aspettative, segnala il coordinatore tecnico delle case di riposo di Federsanità in Regione, Giovanni Di Prima. La popolazione invecchia e i bisogni di assistenza cambiano, si fanno sempre più complessi e le famiglie stanno andando sempre più verso scelte residenziali, spiega Di Prima. Un quadro confermato nei numeri raccolti in Friuli Occidentale, che cita ad esempio la situazione più critica nelle città come a Pordenone, dove alla Casa Serena ci sono ben 425 persone non autosufficienti in lista d'attesa su 259 posti, o alla Casa Anziani Umberto I, 363 in lista d'attesa per 110 posti. Non va meglio a Cordenons, 356 in lista d'attesa per 113 posti, e nella piccola realtà di Pasiano, da 60 posti, che conta già 138 richieste in lista d'attesa, Si tratta in prevalenza di ultraottantenni donne, precisa Di Prima, segnalando che sotto pressione sono anche le altre strutture della regione. Spiega inoltre che l'attesa può essere di diversi mesi per una persona in condizioni di media gravità, anche perché sempre più numerose sono le situazioni di alta gravità a cui va data precedenza. A complicare le cose la carenza strutturale di operatori sanitari. Per Di Prima oggi servono più posti letto per non autosufficienti e serve rafforzare i servizi domiciliari sul territorio, soprattutto per le persone con malattie neurodegenerative, ma il sistema sembra già non più sostenibile e l'anagrafe non dà buone notizie per il futuro. Da qui al 2035 la regione conterà 7.500 over 65 non autosufficienti in più rispetto agli attuali 38.000. Con l'attuale sistema si stima che serviranno per questo 22 case di riposo da 120 posti letto, pari a un investimento pubblico di 440 milioni, ma considerando i tempi di costruzione di un'opera pubblica siamo già fuori tempo massimo. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Alla prefettura di Udine si è riunito il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza per illustrare ai sindaci il progetto, previsto dalla Regione, che prevede il potenziamento della rete di videosorveglianza nei singoli comuni e la creazione di una rete provinciale e regionale per la gestione della sicurezza. Integrare e mettere in rete i sistemi di videosorveglianza in continuità con i progetti di monitoraggio del territorio gestiti dalle amministrazioni comunali. Un progetto previsto dalla Regione, finanziato con la legge di assestamento di bilancio estiva con 4 milioni di euro. Pierpaolo Roberti, assessore regionale alla sicurezza. Un pacchetto sicurezza straordinario che abbiamo voluto mettere in campo per potenziare questo sistema che è sempre più necessario alle forze dell'ordine sia per la repressione dei reati, perché chiaramente quando accade un fatto sul territorio regionale la prima cosa che succede è che le forze dell'ordine vadano dal comune a richiedere le immagini di videosorveglianza, ma anche a scopo preventivo. Al tavolo del Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza in Prefettura Udine i sindaci hanno illustrato le necessità del proprio territorio, che spesso è molto vasto, come la Carnia, la cui sicurezza è già gestita in rete tra Tolmezzo, Arta Terme e Villa Santina. Il sindaco di Tolmezzo, Roberto Vicentini. Essendo il nostro un territorio molto vasto che va da Sappada fino a Maro, mi viene da dire il tema più importante è quello che è la prevenzione, perché è una zona di confine, è una zona molto trafficata. È una zona dove si vive una migrazione di un tipo, ma anche una migrazione di passaggio, un transito magari di quella microdelinquenza che a volte vediamo anche ricadere sul nostro territorio proprio per il passaggio. Il progetto prevede il collegamento diretto delle sale operative della polizia locale con la questura e i carabinieri. A rappresentare i comuni del Friuli orientale, dunque 40.000 abitanti, è stata la sindaca di Cividale, Daniela Bernardi. Questo è un lavoro in rete, un bellissimo esempio di come si dovrebbe lavorare per ottimizzare le risorse finanziarie ed umane a disposizione, collegandoci tra realtà territoriale e potendo integrare in questo caso un progetto per la tranquillità e il vivere bene nella nostra regione e nei nostri comuni da parte dei cittadini. Udine, Eva Ciuc, TGR Friuli Venezia Giulia. Di sicurezza non se ne parla mai abbastanza e purtroppo siamo ancora distanti da quel motto che ha sempre contraddistinto l'impegno di una vita del sindacalista della CISL di Udine, Beppi Turchetti, affinché tutti possano tornare a casa. È a lui che la CISL ha voluto dedicare stamani un ricordo a 30 anni dalla sua scomparsa, celebrando un pioniere della sicurezza sul lavoro e affidandone a Roberto Muradore la memoria, il richiamo a quanto sia importante rispettare le regole, stare attenti e non abbassare mai la guardia. Lo scrive in una nota alla CISL, che considera quello sulla sicurezza un monito sempre valido ed attuale se si considera l'incidenza ancora troppo alta degli infortuni sul lavoro, anche nella provincia di Udine, che continua a detenere la maglia nera a livello regionale. Su 11.618 incidenti registrati in Friuli Venezia Giulia tra gennaio e settembre del 2024 sono 4.817 quelli avvenuti nell'Udinese ed in aumento rispetto a quei 4.681 riferiti all'analogo periodo del 2023. Solo la provincia di Udine inoltre ha registrato un aumento tra il 2023 e quest'anno anche dei morti sul lavoro, 9 a fronte dei 7 dell'anno scorso. Le cose poi non vanno meglio per quanto attiene alle malattie professionali. La CISL richiama i dati dell'INAIL. Le denunce sono passate da 711 periodo gennaio-settembre 2023 a 729, stesso periodo di quest'anno, e anche in questo caso la provincia di Udine è quella che segna il maggior numero di casi. Sono sempre di più le donne nel mondo del lavoro e sempre di più quelle che ricoprono incarichi di responsabilità. Nel comparto cooperativo sono passate dal 52% del totale degli addetti nel 2016 al 59% di oggi, secondo uno studio effettuato da Confcooperative regionale tra le 508 cooperative associate. Nello stesso periodo la percentuale di donne lavoratrici nel complesso delle imprese di ogni tipo è passata dal 37 al 42%. Sono donne il 28% dei presidenti di cooperative, erano il 24% e il 30% dei componenti dei CDA. Sono i dati presentati in occasione dell'insediamento della rinnovata commissione regionale dirigenti cooperatrici di Confcooperative. Il ruolo delle donne nel mondo del lavoro sta crescendo e ci sta finalmente avvicinando ai paesi più avanzati. Nel mondo cooperativo la presenza femminile è particolarmente importante in settori come la cooperazione sociale, il turismo e la cultura. C'è ancora tanto lavoro da fare però per una vera parità nell'accesso alle posizioni di vertice, a causa pure dei tanti ostacoli che le donne incontrano sul fronte della conciliazione tra il lavoro e la famiglia, anche se finalmente molte imprese adottano pratiche che promuovono le politiche e i servizi di conciliazione, ha commentato Mirella Berdini, cooperatrice socia della storica cooperativa di consumo di Premariacco. È stata riconfermata alla guida della commissione dirigenti cooperatrici. Le differenze di genere tuttavia rimangono ancora ampie. Secondo un'analisi condotta dalla stessa Confcooperative su base nazionale, il 68% delle addette delle imprese cooperative ricorre al part-time contro il 30% dei colleghi maschi e il gender pay gap, cioè la differenza di retribuzione tra uomini e donne impiegati nelle cooperative in Friuli Venezia Giulia, si attesta ancora sui 14 euro lordi al giorno, mediamente. A partire da oggi iniziano i lavori di risanamenti stradali delle carreggiate nella zona sud di Trieste, queste in particolare le aree interessate. Strada della Rosandra, dalla rotatoria di Via Flavia al confine comunale per la durata di una settimana, con restringimento delle corsie ed eventuale senso unico alternato regolato da movieri. Via Vittorio, dalla Chiesa di Gesù Divino Operaio a Via Gravisi per la durata di 5 giorni. 5 giorni di chiusura anche per Via Fonte Oppia da Via dell'Istria a Via Slavic. Via Flavia, da Via De Gravisi a Via Di Vittorio, resterà chiusa oggi e domani con restringimento delle corsie. I lavori comprendono la fresatura e l'eventuale risanamento di tratti degradati, ripavimentazione in asfalto e realizzazione della segnaletica orizzontale per una durata complessiva presunta di circa 20 giorni. Diamo uno sguardo al tempo, nuvolosità variabile sulla regione, queste le temperature registrate alle 11, a Trieste e a Udine 13 gradi, a Gorizia 11,5, a Pordenone 11, a Forni di Sopra Tolmezzo 8 gradi, a Piancavallo 7, a Sappada 6,5, a Tarvisio 4,5, sul Monte Zoncolan 6 gradi, sul Monte Lussari 2, a Grado e Lignano 10 gradi. Le previsioni durante il corso della giornata: cielo variabile con alternanza tra velature anche consistenti e maggiori schiarite nelle ore centrali. In serata generale aumento della nuvolosità. Domani cielo da nuvoloso a coperto, in serata soffierà libeccio moderato sulla costa e vento da sud-ovest sostenuto in quota. Sulle zone orientali e sulle Alpi saranno possibili piogge da deboli a moderate che anticiperanno il fronte della notte successiva. Siamo allo sport, iniziamo dal basket. Sconfitta ieri sera per la Pallacanestro Trieste, che ha perso in casa contro Trapani 93-98. I ragazzi di coach Christian hanno inseguito gli ospiti per buona parte del match. Il sorpasso di Trieste riesce nell'ultimo quarto, vantaggio che non riesce ad amministrare. Sentiamo il commento nel post partita di coach Christian e di Michele Ruzier. You know, we've got to learn how to beat good teams in this league. Dobbiamo imparare come battere squadre forti in questo campionato. We keep making the same mistakes. Continuiamo a fare gli stessi errori. In the 3 games we've lost, teams are shooting 46 or 47% from 3 on us. Nelle tre partite che abbiamo perso, le squadre hanno tirato il 46 o il 47% da 3 punti contro di noi. I mean, there's nothing makes me more enraged than giving up open 3-point shots. Non c'è niente che mi fa essere più arrabbiato che lasciare tiri da 3 punti aperti. So we've got to hold ourselves accountable to making that a strong part of our defense, which it has been in the past. Quindi dobbiamo cercare di rendere questo fatto, la difesa sul tiro da 3 punti, una componente, un lato positivo della nostra difesa, come lo è stato in passato in altre partite della stagione. But that is an unacceptable number to how much time we spend on defense of the three. Perché questo è un numero inaccettabile per quanto tempo passiamo in allenamento dedicato a questa cosa, a difendere il tiro da 3 punti. Peccato che alla fine ci credevamo. Va sicuramente i nostri complimenti a Trapani, che anche nei momenti difficili hanno fatto dei canestri importantissimi. Hanno dei giocatori molto forti, questo lo sapevamo, però ci dispiace di non averla portata a casa, in casa nostra. Ancora una vittoria dell'APO Udine al Palacarnera in A2, mantenendo l'imbattibilità in casa. Battuta Vigevano per 93-87, non senza difficoltà. C'è chi guarda il bicchiere mezzo vuoto, anche se in realtà è più che mezzo pieno. L'APU prosegue il suo percorso netto al Carnera. Per la terza volta nelle ultime quattro vince con una grande rimonta dopo un primo tempo deludente, ma facendo vedere a tratti una superiorità che è un segnale al campionato. Contro Vigevano, squadra pane e salame, costruita sul talento offensivo clamoroso di Gabriele Stefanini, la squadra va sotto ma non annega. Vertemati l'aveva previsto. Alla quinta partita in due settimane ci poteva essere qualche difficoltà all'inizio. I lombardi nel primo tempo segnano tutto e il vantaggio si accumula goccia dopo goccia, arrivando anche a quota 20 con una tripla di Galassi. La bravura di Udine è di rimettersi in carreggiata prima della sirena di metà gara, con Daros e due bombe di Icangi. Vigevano non può andare avanti con quelle percentuali e la rimonta si completa a fine terzo quarto con un altro canestro da tre, stavolta di Hiki. Oduro, con il suo curioso stile di tiro, sigla l'ultima parità a quota 72, subito spezzata con un altro tiro dalla distanza di Daros. I friulani restano in testa, seppur di poco, grazie alla coppia americana Hiki-Johnson, con Alibegovic e i tiri liberi finali di Carotti a firmare il successo. 93-87, terzo posto in classifica consolidato. Il Tour de Force però non finisce. Venerdì Old Wild West di nuovo in campo, sul parquet della Tezenis Verona, dei 5 ex più coach Ramagli, squadra che finora ha convinto più in casa che in trasferta. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. E siamo al calcio, Serie C. Decima sconfitta per la Triestina, che ieri ha perso in trasferta contro il Feralpi Salò per 2-0. Gli alabardati restano ultimi in classifica con soli 6 punti. Squalifiche e infortuni non bastano a spiegare la decima sconfitta della Triestina in 15 gare. Alabardati arrendevoli e senza mordente a Salò contro una Feralpi quasi sorpresa da un'Unione apparsa rassegnata in fondo alla classifica. 8 minuti e la partita è già indirizzata. Bello spunto di Pietrelli sulla fascia destra, palla indietro e preciso piatto sinistro di Cavuoti che segna l'1-0. La reazione alla bardata non è efficace, i verde-blu mantengono il pallino del gioco e alla fine del primo tempo affondano di nuovo sulla fascia destra. L'iniziativa è sempre di Pietrelli, che non trova alcuna resistenza e fa tutto da solo, entra in area e supera Ross con un piatto destro chirurgico. Sul 2-0 alla Feralpi non resta che gestire in una ripresa nella quale la Triestina non produce nulla di buono. I padroni di casa legittimano il vantaggio con altre azioni pericolose, come quella di Cavuoti, che converge in area da destra e con un tiro a giro mancino fa sibilare la palla a mezzo metro dal palo. Finisce così un 2-0 senza appello, se non quello di venerdì prossimo al Rocco contro il Renate, l'ennesima gara della speranza. Andrea Covre, TGR Friuli Venezia Giulia. Volley Serie 1 femminile, la CDA Talmassons perde in casa contro la Vero Milano per 3-1. Le ragazze di coach Barbieri partono bene contro le campionesse lombarde, ma poi Milano ribalta la partita. 4 set giocati punto a punto, la vittoria nel terzo sfiorata in un paio di occasioni, ma alla fine la CDA rimane a secco nell'incontro con la corazzata Milano, in questa occasione apparsa più che abbordabile. In casa Vero Volley la novità è l'assenza della palleggiatrice campionessa olimpica Orro, rimpiazzata da Costantinidou. Senza la regista titolare, le vice campionesse d'Europa hanno qualche problema in attacco, accentuato dalle condizioni a dir poco precarie della Egonu. Per i tifosi assiepati sugli spalti del Palasport di Latisana, il copione del primo set è perfetto. Dal testa a testa emerge Talmassons, che mette a segno gli ultimi punti e chiude sul 25-22. Nel secondo set c'è la prima svolta del match. Dal 21-18 al lungo prodigioso della squadra di Lavarini, che approfitta di un calo di ricezione delle padrone di casa in maglia fucsia, 25-21 è un set pari. Il terzo set è emozionante, finisce ai vantaggi. La formazione di Barbieri ha 6 palle per portarlo a casa e in 2 occasioni Milano viene salvata dal Vidocek per questione di 1 centimetro o forse 2. E alla prima opportunità le ospiti si prendono il set, 32-30. Il testa a testa caratterizza pure il quarto parziale. Un piccolo lungo della CDA viene rintuzzato e Milano chiude in volata. Buona la distribuzione del gioco in casa Talmassons, con 4 atlete in doppia cifra di punti e le centrali Kocic e Botezat non hanno sfigurato davanti a Danesi e Herman. Sentiamo Botezat. Ma rammarico sicuramente per il risultato, però secondo me abbiamo fatto una grande prestazione. Siamo rimaste lucide per tutti i set, cosa che nelle gare precedenti non era capitato sempre, e secondo me è un punto da dove ripartire. Dall'altra parte, Dalderop è stata decisiva non solo in attacco. Silla un po' altalenante e Gonu deve riprendersi dopo lo stop a inizio campionato. Paolo Roncoletta, TGR Friuli Venezia Giulia. In A2 maschile, nuova vittoria per la Tinet Prata, che in casa ha sconfitto Siena per 3-1. Dopo il 2-0 iniziale dei giallo-blu, Siena vince il terzo set per 34-32 e prende slancio anche nel quarto. Prata reagisce e conquista i 3 punti che valgono ancora il secondo posto in classifica. Migliore in campo Terpin con 25 punti a referto e 70% di realizzazione in attacco. Uno sguardo ad alcuni appuntamenti di questo pomeriggio sera, tra questi un'iniziativa riservata ai negozi di Gorizia che si inserisce nel ricco programma di formazione in vista della sfida Go 2025. Parte oggi in Via Rastello 62 alle 15 il primo dei 2 laboratori di Go & Go, vetrina in scena, nel quale si affronteranno la domanda dei consumatori che vivono l'esperienza di acquisto non più come necessità ma come soddisfazione di un loro desiderio. L'iniziativa è inserita nell'ambito del PNRR Bando Borghi all'interno del progetto La Via del Borgo. Nuovo appuntamento di Storia in Città 2004, serie di incontri promossi dall'Università di Trieste e dall'IRSEC. Marcello Flores, professore dell'Università di Siena, interverrà sul tema la resistenza in Italia e in Francia nell'Aula Magna dell'Università nella sede di Via Baciocchi a Trieste alle 18. Il lunedì dello Schmiedel propone alle 17.30 nella sala Baslen di Palazzo Gopcevic Inquiete, nostalgie, prospettive artistiche di Carlo Vostri e Leon Orfini. Al Teatro Bobbio di Trieste verrà proposto alle 18 il classico Chi ha paura di Virginia Woolf con la regia di Daniela Gattorno. Il mantello per Trieste dell'artista internazionale Elisabeth Mazet e del coreografo Cekvo Dan Akbetu apre la programmazione di danza al Politeama Rossetti in Sala Generali alle 20.30. Al Kulturnidom di Gorizia, invece, nell'ambito dei festeggiamenti del suo 43esimo anniversario di attività, la presentazione del libro e del documentario in lingua slovena Moich 33 tot prav, le mie 33 espedizioni. Ospite della serata è il noto alpinista sloveno e autore del libro Vicky Groschel. La premessa introduttiva del libro porta la firma del suo grande amico Reinhold Messner. Ed è tutto per questa seconda edizione del nostro giornale radio. In redazione ha collaborato Valentina Veneruso, per la parte tecnica in regia Caterina Cabrelli ed Eugenio Giuffrida. Da parte di Andrei Marussi e di Elisabetta Zaccolo che vi parla, grazie per l'attenzione e l'augurio di un buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.